Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, è l'ultima puntata stagionale per intero di Palla Spicchi, anche se di basket non smetteremo mai di parlare, mai, né quest'estate né oltre, ma oggi chiudiamo con il botto, perché passa di qui una volta all'anno, ma passa sempre, perché è un amico oltre che una superstar NBA. Ciao Danilo Gallinari. Ciao, ciao a tutti. Costian Peterson, buongiorno. Ciao Carlo, Danilo, un abbraccio, ok? Salve coach. 800240024 per tutti quelli che vorranno telefonare in diretta e interrogare il Gallo. Ce l'avessi avuto tu, coach, magari il campionato italiano sarebbe, anzi, sono certo, sarebbe andato in un altro modo. Ma guarda Carlo, quando Denver è stato eliminato nei playoff, io ho cercato, Danilo non lo sa questo, io parlare con suo padre, con tutti quanti, possibilità di avere Danilo con noi, cioè, ho mosso montagne e mare, ma non, per le regole NBA non era possibile, ma era nei miei programmi assolutamente. Ah, come avresti fatto giocare? Playmaker. Dove lui voleva giocare, Danilo, dove vuoi giocare? Prendi posto, non c'era problema. Dove avresti giocato? Non lo so, dove mi metteva il coach. Vabbè, adesso basta. Milano sei andato a vederla? Sì, sono andato a vedere gara 4, purtroppo persa. Purtroppo persa, troppo forte Cantù, bravissima Cantù. Sì, sono stati bravi e hanno espresso, secondo me, la miglior pallacanestro dopo Siena. E, insomma, hanno fatto una splendida annata. E sono stati bravi, insomma. Coach, lascio a te la prima domanda a Danilo. Danilo, fra l'altro, ho visto tu allenatore qui, George Carl, e loro sono venuti a parlare con te di diverse cose. Come sono andati i colloqui con George Carl, suo vice John Welch e compagnia? Di cosa avete parlato e a che punto siete? Ma abbiamo parlato un po' del mio ruolo per l'anno prossimo e insomma lui mi ha ripetuto ancora l'importanza che vuole darmi all'interno della squadra e la mia importanza all'interno di quello che è un progetto a Denver e quindi insomma, abbiamo parlato un po' di questo, non abbiamo parlato tanto di cose tecniche perché è un po' il ruolo che vuole darmi a livello tecnico lo stesso che ho avuto quest'anno, chiaramente vorrebbe dandomi una ancora più importanza e più leadership, vorrebbe chiaramente che le statistiche insomma migliorino un po', ma penso che sia una cosa poi che venga naturalmente con la maggiore importanza all'interno della squadra, quindi abbiamo parlato un po' di questo e basta insomma. Ma lui mi ha detto fra l'altro mi ha detto quando Danilo è venuto da noi tutti mi parlavano di un grande tiratore e lui è un grande tiratore, ma lui è rimasto molto piacevolmente sorpreso nel senso positivo, ripeto, del tuo gioco molto completo, di tutte le cose che sai fare, cioè dice uno che gioca spalla canestro in pivot basso, uno che sa giocare uno contro uno, altre cose, cioè lui è stato molto impressionato dal tuo gioco completo, quindi secondo me, se riesco a intuire io da quello che ha detto lui la sera che abbiamo parlato con lui, avrai un ruolo veramente molto più completo e molto più riparte del campo. Questa è la mia primissima impressione. Sì, è quello che mi ha detto anche lui stesso. E, insomma, chiaramente il gioco in offensivo per lui mi ha espresso subito quando sono arrivato concetti diversi rispetto a Mike a New York. Con Mike offensivamente la prima idea era quella di tirare dovunque fossi, anche da metà campo, quindi invece a Denver insomma la situazione era diversa, voleva che il tiro da tre punti fosse la terza opzione, le prime due erano penetrare e la seconda andare sulla linea del tiro libero. È una squadra un lui po' vuole più per te, che la sua squadra batti tanti tiri liberi, questa era esatto la sua filosofia. Senti coach, hai chiesto a Danilo dei suoi colloqui, ma i tuoi con Milano? Me lo rimandano, dovevo vedere Livio Prole oggi, ma lui era riunioni a Fiume, quindi ci vediamo lunedì, però è chiaro che che sono, per me sono solamente formalità, perché abbiamo un'attesa in linea di massima, stiamo solamente ai dettagli, come dicono. Se no chiamo Werther Pedrazzi e me lo faccio dire. No! Cos, prima di chiudere, altra notizia di oggi, adesso tutti i risultati sono sul tappeto, tutti i risultati stagionali, l'ultimo è arrivato ieri sera con una squadra che è stata vicina per molti anni, Venezia, che ha fallito la promozione per un soffio, bravissima Casale Monferrato, di Marco Crespi, che è arrivata in Serie A con un sacco, con un folle entusiasmo. Fra l'altro Marco Crespi è un allenatore che viene dal Vivaio di Milano, quando c'ero io, non voglio prendere nessun merito per quello che ha fatto lui, e Beppe Barbera, pure lui è stato il general manager factotum lì sotto Giancarlo Cerruti, è stato anche lui nel mio settore giovanile, quindi volevo vedere Venezia fare la promozione in Serie A, ma anche volevo vedere Casale fare. Sono le due società che hanno veramente lavorato bene e che hanno meritato questa possibilità. Ci sarà magari Venezia, per altri motivi, riesce a venire anche quest'anno in Serie A, ma hanno gettato le basi di veramente un progetto molto molto serio. Grazie coach. Ciao ragazzi, Danilo, un abbraccio. Saluti al galone, ok? Va bene, ciao coach. Ciao, ciao. Grazie coach Dan Peterson, io ho già un sacco di messaggi, aspettiamo anche gli ascoltatori che interverranno, 800 24 0024, da questo che messaggio, devo dire il numero anche se evidentemente lo conoscete, 349 238 6666. Gallo, tirami sul morale, ho preso del pazzo da me, da sottoscritto e da Davide Pessina un giorno, questo ascoltatore evidentemente, no del pazzo no, però ha pronosticato l'Italia sul podio agli europei e io e il PES abbiamo detto boh, ci speriamo tutti, ma quest'anno sarà un europeo da superstar, dai tirali sul morale tu. Ma ti dico, io non penso che ci siano le possibilità nella squadra di arrivare sul podio, ci sono tante squadre forti, squadre con giocatori che sono veterani Eurolega, che hanno giocato Final, che giocano Final Four ogni anno, che hanno vinto delle Euroleghe. Noi siamo un gruppo un po' diverso che non ha mai lavorato assieme, lavorerà per la prima volta quest'estate, è un gruppo giovane e quindi vedremo un po' come va, ma non penso che insomma le aspettative debbano essere così alte. Poi c'è, vabbè, chi vorresti come playmaker della nazionale, poi ci sono anche le cheerleaders. Ciao Danilo, ti adoro, sei bravissimo, continua così, Franci, immagino francese. Grazie Franci. Senti, ma dedicato al nostro comune amico Riccardo Belli, che ringrazio e che è di là in regia, mi ha chiesto Riccardo di chiederti chi sono le cheerleader più belle d'America. Mi ha chiesto lui, e io a me non interessa. Ti dico la verità, io le cheerleader più belle le ho viste quando giocavo l'Eurolega con Milano, le ho viste in Lituania, no, le ho viste in Spagna. E quando insomma in America c'è un po' questo mito delle cheerleader, New York probabilmente era uno delle squadre che c'erano quelle un po' più carine, ma insomma il livello non è altissimo. Meglio l'Eurolega, sì, sì, sì. Chissà gli europei in Lituania. Esatto. Palla spicchi. E stanno arrivando ovviamente gli ascoltatori, così come una tonnellata di messaggi. C'è chi, ma ovviamente ne parleremo, vuole sapere da un insider come il Gallo un pronostico sulla probabile e temibile lockout dell'NBA. C'è chi scrive: oggi spero parliate anche di calcio, visto che nei giorni scorsi avete parlato di basket. Lo facciamo subito. Dov'eri quando hai festeggiato lo scudetto del Milan? Quando ho festeggiato lo scudetto ero a San Siro. Eri già tornato? Sì, tornato, presente a San Siro con l'ultima partita col Cagliari, presente ai festeggiamenti post-gara e post-gara. Com'è stato? No? Divertente? Divertente, bellissimo, festeggiamenti super, la ballata di Boateng è stata secondo me la parte più bella dei festeggiamenti, ma poi chiaramente è il tutto legato insomma allo scudetto finalmente arrivato dopo qualche annetto. Migliore in campo nel post festeggiamento? Quello non lo so, non si può dire. Piero da Milano e Luca da Roma, primi due ascoltatori di oggi. Piero, buongiorno. Buongiorno Carlo e un grandissimo saluto e un abbraccio al grande Danilo. Un abbraccio a te. Sono un tuo grandissimo tifoso, ho visto tutte le partite quest'anno, tutte le tue partite. Tutte? Tutte. Fatemi qualsiasi domanda, potrei rispondere, vi sfido. Grandissimo. Però ti chiedevo questo, come va il tuo... No, due cose. Una, se mi fai un saluto velocissimo alle ragazze del Sanga Milano, che sono la squadra con la quale collaboro, che si sono salvate quest'anno in playout e basta. Un saluto grandissimo e un saluto a tutte le ragazze del Sangha, continuate così. Grazie Danilo. E poi una cosa, come va il tuo processo, cioè perlomeno una tua previsione, questo processo di adattamento al basket americano? Il tuo stile di gioco, lo sappiamo, non è proprio, diciamo, quello nei canoni del classico giocatore, della stella NBA, però tu credi che diciamo questo tuo percorso possa arrivare a farti diventare una stella, o torniamo sulla famosa affermazione di New York, quindi ti ritieni non una stella di prima grandezza ma un ottimo giocatore? Io chiaramente sono più per la prima. Ciao, grazie, ascolto la risposta per radio. Grazie del tuo intervento e della domanda. Ti rispondo dicendoti che attualmente non mi ritengo a livello delle superstar NBA. Quello che dicono gli allenatori che mi hanno allenato come Mike, che mi stanno allenando adesso come Coach Carr, pensano che ci siano le possibilità, le qualità per arrivare a quel livello lì. Quindi penso che sia comunque un processo e vediamo un po' come va giorno per giorno, partita per partita, stagione per stagione, insomma. C'è chi ti vede intanto MVP agli europei e ditemi che sono matto, scrive Daniele da Bologna. Senti, cosa hai provato nel vedere invece Dirk Nowitzki e Jason Kidd, due grandi vecchi che festeggiano l'anello? Beh, è stato sicuramente un risultato, date le mie previsioni, inaspettato, perché pensavo che vincesse Miami. Contentissimo che abbia vinto Dallas. Per tanti motivi, uno dei motivi principali è perché mi divertiva più vedere giocare loro nel loro sistema, piuttosto che vedere tante individualità che cercava di, certo, di mettersi assieme e giocare bene assieme. Sì, poi un premio alla carriera, insomma, sono due giocatori che io quando vedo qualcuno che tanto ha sofferto sul campo, e Nowitzki e soprattutto Jason Kidd, che di finali ne ha perse anche di più, come ricordiamo, quando vedo qualcuno che ha sofferto così tanto sul campo centrare il risultato, beh, mi viene in mente quando ero ragazzino e ho visto tuo papà e Mike D'Antoni e McAdoo alzare quella Coppa dei Campioni a Losanna in un palazzetto del ghiaccio in cui faceva un freddo cane. Sì, sicuramente è una cosa che ti fa piacere, no? Anche vederlo da fuori e soprattutto sapere che per raggiungere certi risultati bisogna sudare. E quando riesce ad arrivare al top dei top, che vince la NBA, penso che sia, insomma, la soddisfazione o una delle soddisfazioni più belle al mondo. LeBron James, il re nudo? LeBron James, sai, io non avrei sicuramente affrontato un cambiamento di squadra in quel modo lì e non avrei probabilmente festeggiato o pubblicizzato così tanto una squadra che prima di dire o pronosticare certe cose bisogna farle vincere. Dall'altro canto penso che insomma siano comunque stati molto bravi tutti e tre, ma tutta la squadra, a sopportare comunque secondo me una pressione incredibile che, sì, non aveva nessuna squadra NBA. Loro, un gruppo nuovo, comunque con tanto talento, sono stati capaci di arrivare in finale NBA, che non è sicuramente facile, quindi meriti anche a loro. E LeBron adesso di pressione ne avrà ancora di più, cioè se riesce ad uscire dal buco in cui è precipitato, allora davvero può diventare la superstar assoluta che tutti immaginiamo. Però è chiaro, come adesso, insomma, il rischio è quello di essere il più forte, il più grande, il più pagato perdente della storia del basket. Sì, c'è quel rischio lì, però penso che lui, per quello che posso conoscere io, è un ragazzo, penso, molto determinato, e un ragazzo che è abituato sin da quando è in high school a sopportare una pressione che probabilmente un suo pari età non ha mai dovuto sopportare. E quindi mettersi, secondo me, anche degli obiettivi, che sono degli obiettivi come quelli che si è messo lui, ti mette della pressione addosso, ma anche onore a lui, perché vuol dire che hai delle mete, degli obiettivi in testa, e che è una cosa che deve far parte della mentalità di ogni atleta, sicuro. Dite al Gallo che si fa una fatica boia a trovare una sua maglia di Denver, e sfiga vuole che ad aprile l'NBA Store di New York fosse chiuso, scrive Andrea. C'è chi ti chiede un aneddoto qualsiasi sul piccolo, grande, folle uomo Nate the Great Robinson. Poi c'è Luca da Roma, Antonio da Salerno. Torniamo naturalmente agli ascoltatori, che hanno tutto lo spazio che vogliono. Ma di aneddoti ce ne sono tanti con Nate, perché ogni giorno c'era una sorpresa. Ve ne racconto due se ho il tempo. Uno una mattina arrivo in spogliatoio e siccome noi europei siamo famosi, anche presi un po' in giro in America, perché usiamo le cosiddette speedo, cioè gli slippini, sì. Loro invece usano boxer e gli slippini non esistono. Sì. Allora uno dei... Giocano con i boxer? No, si gioca con i scaldamuscoli, però sì, nella vita normale portano i boxer. E allora arrivo in spogliatoio una mattina e c'erano degli slippini di Superman, con il simbolo di Superman blu, attaccati nel mio spogliatoio, e chiaramente sapevo benissimo che li aveva messi lui la sera prima di andare via dall'allenamento. E invece un'altra volta ci stavamo allenando, stavamo facendo allenamento di tiro e lui ogni tanto faceva i salti che tutti conoscono, sì, e li hanno visto fare. Io ero sotto canestro per andare in balzo e sento una mano in testa. Di solito la mano in testa si sente qualcuno che dice ascolta per dirti come stai o che vuole parlare, invece lui me l'ha messa perché mi è saltato sopra e ha schiacciato. E quindi sono state due cose simpatiche, ma con lui veramente ne potrei raccontare tantissimo. Sì, poi ti chiedo qualcosa invece su un altro dei miei idoli, che non può che essere Birdy Anderson, perché ce n'è uno già pronto per te. Arrivo, Luca da Roma. Buongiorno cordiale dottor Carlo, e un abbraccio affettuoso all'immenso Danilo. Un abbraccio a te. Senti Danilo, io sono il presidente di un club che si chiama Todd, che sta per tifosi dell'Olimpia orfani di Danilo. In pratica siamo persone che ancora piangiamo per il tuo addio del 2008. E io ho solo due consolazioni. Uno è il fatto che chiaramente sei andato a fare cose straordinarie in NBA, è come quando la tua fidanzata ti lascia per mettersi con Tom Cruise, insomma alla fine te ne fai una ragione. E la seconda consolazione è che sono sicuro che tu prima o poi torni a giocare a Milano da noi. E allora volevo chiederti, anche se sembra un po' anacronistico, chiederti adesso nel pieno del tuo boom americano, se c'hai un'idea fra quanto dovremmo aspettare per un rientro un giorno a giocare a Milano. Guarda, ti abbraccio infinitamente, forza, metticela tutta agli europei, fai vedere che sei il più grande di tutti. Però Ti ringrazio innanzitutto, proveremo a fare il massimo agli europei, insomma vedremo cosa succederà. E, a Milano nella mia idea, nella mia carriera, nella mia idea c'è quella di sicuramente di tornare a Milano quando sarò un po' più vecchiotto. Adesso spero di stare in America il più lungo possibile, ma nella mia testa c'è un ritorno in Europa e chiaramente un mio ritorno in Europa non può che essere a Milano, insomma. Antonio Salerno, buongiorno. Salve. Salve. Buongiorno. Volevo chiedere a Gallinari, guardando le partite NBA spesso si vedono squadre basate molto più sulle individualità piuttosto che sul gioco di squadra, e spesso rispetto a questa cosa Gallinari mi è sembrato spesso in difficoltà, soprattutto quando l'ho visto a New York, dove era una squadra che, come si dice dalle mie parti, parla a me e la vedo io. Volevo sapere, rispetto a questa mia sensazione, come si rapportava Gallinari, che mi sembra un giocatore più che dal punto di vista tecnico, è un giocatore di pallacanestro, è un giocatore di pallacanestro, come abbiamo detto molte volte in quella New York. Dani, era complicato per un giocatore come te giocare al massimo. Denver è più adatta alle tue caratteristiche? Sì, probabilmente Denver è più adatta. Io penso che in generale il gioco NBA sia molto più basato sull'individualità piuttosto che al gioco di squadra, anche se quest'anno secondo me durante i playoff ci sono stati dei bellissimi esempi di squadre che con il gioco di squadra più dell'individualità, come Dallas, hanno fatto il loro. In più, secondo me, il gioco di Mike è un gioco particolare che porta un giocatore a, senza farlo apposta, ma all'essere molto individuale, perché se non sei molto individuale e un po' egoista fai anche fatica. E all'inizio è stato un po' difficile, poi penso sinceramente sia l'anno scorso che quest'anno di aver fatto comunque un buon campionato e di essermi adattato al suo gioco abbastanza bene. Contro natura. Un po' contro natura, sì. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre qui vicino a me, Danilo Gallinari, e poi è arrivata un'altra persona evocata prima, è stata convocata d'urgenza dalla regia al microfono, cioè Riccardo Belli, che buongiorno a tutti. E adesso prima dell'aneddoto sul mio idolo Birdy Andersen, che cercatelo se non lo conoscete su Google, fate Andersen immagini e poi mi chiamate e mi dite cosa ne pensate. Carlo mi sta guardando malissimo, sta per chiedere qualcosa. No, faccio di peggio. Sarà Danilo Gallinari a fare una domanda a Riccardo Belli. Riccardo Belli, quali sono i tuoi programmi estivi? Ah, grazie Danilo di questa domanda, perché non l'avevamo preparata. Guarda, andrò molto probabilmente a fare un bel giro in moto in Corsica, perché sai che io sono un appassionato di moto come il nostro amico Carlo Genta, e quindi andiamo a vedere splendidi mari della Corsica. Poi in moto è un po' come farla in barca, la Corsica, o la fai in barca o la fai in moto, l'apprezzi molto di più. Però io vorrei fare una domanda a te, Danilo Gallinari, perché adesso si parla sempre di basket, però me la faccio. Ci sono persone che ascoltano, che vogliono sapere anche un po' Danilo Gallinari cosa fa fuori dal campo, per esempio questi weekend, dove sei stato in vacanza, che cosa hai fatto, con che amici ti sei divertito, ma poi le ragazze, no? Non si parla mai delle fidanzate di Danilo Gallinari. Ma si possono fare nomi? Anche con, nel senso che alcune esperienze sono state condivise con una delle due persone che è presente qua a parlare con noi, non faccio nomi, decidete voi tra Carlo e Riccardo. No, resto, parla delle tue. Sono appena tornato dalla Croazia, ho fatto 10 giorni in Croazia con mio cugino Giacomo De Vecchi, che probabilmente qualcuno conosce perché ha giocato quest'anno a Sassari, ha fatto i playoff contro Milano, e grande Jack a tutto motore. E poi con Mitch Poletti, che ha giocato quest'anno in A2 Forlì, siamo cresciuti assieme nel vivaio del campus quando eravamo piccoli e siamo andati in vacanza noi tre. Ogni estate cambiamo meta e facciamo sempre 10 giorni noi tre assieme. Quest'estate abbiamo deciso di andare 10 giorni in Croazia, abbiamo fatto 2 isole, Kvar e Pag, e insomma siamo stati molto bene come al solito. Ci sono dei paesaggi incredibili che non avevo mai visto. Più che altro perché, se pensiamo che da una parte, senza nulla togliere alla costa romagnola, Milano Marittima, dall'altra parte ci sono dei posti paradisiaci in pochi chilometri, è veramente, secondo me, qualcosa di incredibile che mi ha affascinato. Insomma, quindi consiglio la Croazia. Terra anche di grandi giocatori. Soprattutto, terra di grandissimi giocatori. Questa è una risposta formale. Se ne sono accorti tutti. Risposta formale. No, che poi il problema, essendo lui De Vecchi e Poletti, essendo in tre, il problema è risolvere le serate e trovare il quarto per giocare a scopa. Esatto, no? Esatto. Il vero problema delle vacanze è quello lì. Niente. Com'è il tuo rapporto con Spike Lee? Domanda Tommy. Il mio rapporto con Spike è, insomma, un rapporto super. Ti dico, io quando sono arrivato il mio primo anno a New York, lui stava girando, aveva appena girato il film Miracolo Sant'Anna proprio in Italia, e quindi appena sono arrivato mi ha mandato a casa una busta con dentro il film, il libro del film e una lettera con dedica, dove mi accoglieva e mi faceva l'imbocca al lupo per la mia stagione a New York. Quindi è stato molto simpatico e gentile, e poi chiaramente ogni partita c'erano delle mimiche che partivano particolari con ogni mio canestro, e sguardi tra me e lui simpatici, e quindi insomma è sempre un grandissimo tifoso dei Knicks, e quindi faceva piacere condividere questi momenti con un grandissimo regista. Allora, c'è chi, come Roberto, mi ha dato retta, ha cercato Andersen su Google, è uscito un pittore, non è esattamente così, Chris Andersen, Chris con la K, immagini, e poi ci risentiamo. Oppure, caro Roberto. Oppure Birdman. Allora, l'aneddoto su Birdman. Well, la prima cosa, lui ha 8 macchine. Tre di queste 8 sono... Uno è un camion, uno è un monster truck, quelli che vedete con le gomme giganti, pneumatici giganteschi da gara, e l'altro non me l'ha mai fatto vedere. Vi dico che arrivo all'allenamento e si sente già dalla strada che c'è fuori, sento un rumore, un motore, un rumore tosto, e dico, cos'è, sarà un camion, qualcosa, non mi giro neanche, però questo rumore si avvicina e pian piano questo rumore si avvicina al parcheggio dove ero io. Allora mi giro così per guardare prima di entrare in palestra, era il mitico Birdman che suonava, che arrivava con questo camion con luci, nome sopra, questa sigla che lui ha, Tap Out, che usa con cappellini, questo merchandising che lui ha iniziato. E quindi è arrivato, ha aperto la porta, sceso lì due o tre scalini per salire sul camion e siamo andati a fare allenamento, e quella è stata la prima esperienza in macchina condivisa con il Birdman. E poi insomma ci sono anche altri aneddoti simpatici. È chiaro che una pelle così tatuata non se ne vedono in America, no. E quindi è il secondo o terzo giorno che ci alleniamo assieme, ha detto: tu quest'anno sei un mio amico, però entro la fine dell'anno devi avere tutti i tatuaggi come ce li ho io. E gli faccio: ma Burma, adesso parliamone, vediamo di trovare una via di mezzo. Compresi quelli sul collo colorati. Esatto, esatto. Quindi l'anno prossimo sei più suo amico. Esatto, non sono più suo amico. E c'è davvero un po' di paura. Ho già paura adesso. Ignazio da Milano, poi Alessandro da Monza. Ignazio, buongiorno. Buongiorno, va bene, veloce come piacerà Dio 24. Quindi sì. Tre re magi, che prospettive potrà avere la nazionale agli europei? Lo facciamo dire da un remaggio che è qui, insomma, abbiamo già detto, Danilo è realista. Guarda, io non so quale dei tre sarò e quale dei tre doni porterò, però sicuramente non possiamo fare le stesse cose o portare gli stessi doni che portano i re magi, quindi ci saranno sarà difficile, ci sono tante squadre. Vincenzo Ramira, te rilascio, il resto sarebbe più interessante. Va bene. Vediamo se riusciamo a portare qualcosa del resto. Insomma, sarà un'esperienza innanzitutto bellissima, perché per me sono tanti estati che non faccio parte del gruppo per problemi fisici, quindi sono contento e carico per questo europeo. Prima di Alessandro da Monza, Danilo, una parola sulle tue sensazioni relative al lockout, perché ci sono gli italiani che sono già in preoccupatissimi, no? Su cosa fare da novembre in poi. Penso che insomma il lockout ci sarà, insomma dal 1 luglio inizierà il lockout, e quindi non ci sarà più questo contratto che esiste ormai da 10 anni tra l'associazione giocatori, quindi noi e i presidenti e l'NBA. Non si sa quanto durerà. Le mie sensazioni sono che ci sarà questo lockout, ma verrà trovato un accordo di modo tale che la stagione riprenderà normalmente, secondo me. Quindi tu ti aspetti di cominciare a giocare intorno ad Halloween come sempre? Esatto. Nel frattempo ti allenerai con la nazionale certamente. E poi in Italia che farai? Ma nel frattempo, come hai detto te, speriamo di arrivare il più avanti possibile con l'europeo, quindi di giocare il più a lungo possibile. Non ci sarà tanta pausa comunque tra l'europeo e fine settembre, quando iniziamo la preparazione, quindi solitamente un giocatore la pausa tra europeo e inizio preparazione la prende di vacanza, insomma, quindi probabilmente andrò da qualche parte. Se chiaramente il lockout durerà più del dovuto, starò qua in Italia e mi allenerò da qualche parte. Magari a Milano. Penso di sì. Alessandro da Monza, buongiorno. Ciao, buongiorno. Un saluto a Danilo, grandissimo. Volevo fare una domanda e poi se mi fa la gentilezza di fare un saluto alla mia società di Monza, dove sono presidente, che dopo 50 anni quest'anno ha fatto una promozione dalla seconda divisione alla prima. E dopo 50 anni era ora, mi lascio. No, l'abbiamo fatto più di una volta. Complimenti, complimenti. Grazie. Dica. Secondo te, ruolo per ruolo, chi sono i 5 migliori giocatori NBA? Il miglior playmaker, dico Steve Nash. E come guardia Kobe Bryant, come guardia direi Dwayne Wade, come 3 LeBron James, come 4 Dirk Nowitzki e come 5 Dwight Howard. Io invece vorrei vedere un giorno un playmaker come Steve Nash o come Jason Kidd o come Chris Paul passare la palla a Kevin Durant e poi capire che cosa può succedere. Guarda, la verità è che secondo me, esatto, è difficile perché metto LeBron James, però ti dico la verità che il mio giocatore preferito, nonostante ci ho giocato contro e quindi non abbiamo perso, quindi potrebbe esserci anche dell'astio agonistico, Kevin Durant è il giocatore più forte, il realizzatore più forte che c'è. Talento, è una spremuta di talento pura. Sì, perché poi ti dico la verità, è proprio un giocatore, giocatore esatto, che i giocatori che piacciono a me quando guardo la televisione sono proprio giocatori come le puliti, capaci di fare tutto, con delle caratteristiche fisiche come le sue, un giocatore che con quella semplicità lì riesce a fare 30 punti a partita, ce ne sono pochi, perché se poi pensi a LeBron James ha delle caratteristiche fisiche che sono incredibili, sì. E non ha la stessa, lo stesso bagaglio tecnico di Kevin Durant, secondo me, quindi sì, probabilmente metto lui. Poi c'è la croce di Westbrook come playmaker, che giocatore magari diventerà il più forte di tutti, no? Oggi come oggi è un giocatore, se a uno piace la pallacanestro, rincorrere col bastone, se è il tuo playmaker. È un giocatore, sì, è un giocatore che probabilmente, ti dico, se lo provi a trasportarlo in Europa farebbe fatica, sì. Invece in NBA ha delle caratteristiche per le quali è un giocatore che statisticamente fa molto. Ricky, cosa ti aspetti dal Gallo la prossima stagione? Ma Danilo, soprattutto, quanto è stata dura per te, che professionalmente lo segui sempre, passare da New York a Denver? Ma io non sono ancora andato a trovarlo a Denver, però penso che una città come Denver, che è un paesone, e anche da quello che sento dire riguardo alla squadra, che non dico nulla perché non sono all'altezza di poter giudicare, penso che sia realmente la parte logistica, la città, ma anche la squadra, una naturale conseguenza, una fortunata conseguenza di quello che sta succedendo, perché lì potrebbe veramente trovare, perché Danilo è un grande professionista, si impegna, il talento lo conosciamo tutti, però dal punto di vista mentale è molto molto importante la concentrazione e la preparazione. Lì secondo me riuscirà a far capire veramente chi è, questo sicuramente. Poi lo andrò a trovare e vi confermerò. Sarebbe tutto anche quello ora che dicendo. Vieni a Denver, una vita che devi venire, non vieni, e dire alla Sofi ci parlo io, dai. E forse è meglio così. Lascialo qua. No, ma io faccio una domanda a Danilo. Aspetta, dopo il traffico. Palla spicchi. Dunque, torniamo insieme. Allora, la domanda da chi a chi è? Da te, Danilo, a Riccardo Belli? No, da me a Riccardo Belli e a Danilo al dottor Gallinari. Allora, ma quanto conta? Perché io ti ho visto mentre ti alleni, ti ho visto fuori dal campo, anche quando avevi l'infortunio, il tuo equilibrio. Ma quanto conta? Cioè, come fai a rimanere così concentrato e a far trasparire così poca tensione? Io mi ricordo quando ti vedevo entrare al Madison, che tremavano le gambe a me. Perché quando si è lì poi il pubblico, è tanta la tensione, soprattutto per un ragazzo che arriva a coronare un sogno. Sembri sempre di pietra. In controllo. In controllo. Come fai? Ma io penso che ci sia una parte che è un po' di natura, no? Qualcosa che magari prendi dai tuoi genitori, e probabilmente sono caratteristiche che hanno entrambi i miei genitori e che ho preso. E due, con l'esperienza impari sicuramente a gestire i momenti meglio, però devo dire che sin da quando sono piccolo a me i momenti dove c'è tensione mi piacciono, perché sono i momenti dove secondo me una persona tira fuori il meglio. Non so se in generale, però io sono mi piace la tensione, perché ti dico, senza tensione, a me piace avere la tensione, perché vuol dire che ci sono delle qualità innanzitutto, perché se c'è della tensione e delle aspettative vuol dire che ci sono delle qualità di base, e poi mi piace sentire la tensione, sentirmi insomma dover fare qualcosa e dover provare qualcosa di fronte alle persone, è una cosa che mi gasa e mi dà sempre carica, quindi questa tensione si trasforma un po' in carica, insomma. Sta ascoltando tutto Flavio Tranquillo. Buongiorno Flavio. Buongiorno, ma quel ragazzo lì mi pare un libro stampato. Pazzesco, Flavio. Sto parlando con Riccardo Belli? No, con Danilo Gallinari. No, io dicevo Riccardo Belli, ovviamente, l'altro non lo conosco. No, vabbè, è un aspetto di Danilo di cui hai visto, scritto, raccontato anche nel vostro comune libro, no? Certo che chi si alimenta di tensione di solito sono quelli che fanno tanta strada. Sì, questo è sicuro, però si tratta poi alla fine di essere semplici nel senso più positivo del termine. La semplicità è un grande valore ed effettivamente se ti piace giocare a pallacanestro, giocare quando non conta niente non dà le stesse sensazioni che ti dà giocare quando conta. Poi naturalmente quando rimani in mano con la pagliuzza più corta è brutto aver giocato quando contava, però se non ci fosse l'importanza della posta in palio, che cosa giocherebbero a fare quelli che sanno giocare? Senti, prima parlavamo di lockout e la sensazione di Danilo è che il lockout ci sarà, ma che intorno al giorno di Halloween ricomincerà l'NBA. È anche la tua sensazione? Ma guarda, io non posso avere troppe sensazioni perché mi sembra che in questo momento tutto quello che filtra verso l'esterno sia assolutamente strumentale rispetto alla trattativa. Mi sembra di capire che c'è parecchio lavorio, mi sembra di capire che tutte e due le parti concordino sul fatto che saltare completamente la stagione sarebbe l'equivalente di un suicidio in campo sportivo, visto il momento di successo della NBA. Adesso si tratta di capire se Halloween tira più verso Natale, tira più verso i morti, tira più verso fine agosto, e quello lo possono capire solo veramente quelli che sono dentro la trattativa. Però io sarei ottimista che avremo una stagione NBA. E adesso in questo curioso gioco delle parti sarà Danilo Gallinari a fare una domanda a Flavio Tranquillo. E qua è dura, eh. È dura. Questa non l'avete mai sentita forse? Provi, riesci a scrivere con più facilità e naturalezza di pallacanestro o degli altri argomenti che ultimamente hai spesso affrontato e di cui anche hai scritto dei libri? Con più facilità di pallacanestro naturalmente, perché sono un po' zuccone, però dopo 30 anni due coordinate me le sono fatte per forza. Però ovviamente è più stimolante occuparsi d'altro, perché ogni cosa è una scoperta, quindi diciamo più facilità pallacanestro, più naturalezza, più voglia del resto. Però tranquilli, uno basta del resto, poi per il resto ne parliamo, ma scrivere è meglio che scrivano quelli che sono veramente bravi a farlo. E adesso torniamo al classico, prima di salutare Flavio Tranquillo, fai tu una domanda a Danilo. Vorrei sapere se hai idea del giocatore che è arrivato ieri col draft a Denver, che secondo me per dove è arrivato può essere una bella presa, un Ben Wallace in piccolo, questo Faride, e in generale quali sono gli snodi importanti per i Nuggets in quest'estate, quali sono i dubbi su cui si giocherà poi il loro futuro? Non ho sinceramente idea di come sia questo giocatore che abbiamo preso, non ho avuto la possibilità di vederlo giocare, di seguirlo. Quelle che sono le certezze per l'anno prossimo sono, diciamo, io, Ty Lawson e Nene, poi quello, e anche Aflalo, quello che verrà costruito attorno ai cambiamenti, così sinceramente non lo so. Dimenticavo anche Berman, perché Berman da Denver non si può chiaramente muovere. Ah ecco, volevo ben dire. Flavio, un'ultima cosa, Marco Crespi che dopo tante stagioni a mare è riuscito a tornare in Serie A. Beh, da amico sono molto contento. Mi sembra una vittoria che più che mai è di tutti quelli che l'hanno portata a casa, perché è una vittoria che è figlia anche delle sconfitte del passato. Direi che tutto l'intero film della Casale di questi anni ci spiega che molto probabilmente, se non perdi prima una partita di 1, 2 o 3 punti, poi non sei in grado di vincerla di 1, 2 o 3 punti. Se prendiamo la gara 3 con Pistoia, la gara 3 con Barcellona e in parte anche la partita di ieri sera, credo che siano più o meno la partita di Cremona piuttosto che altri episodi simili del passato, però con l'esperienza, anche se non di ogni singolo giocatore, però del club, dell'ambiente, che ti fa poi vincere di 1-2 quelle partite che prima hai perso di 1-2. Certo, bisogna avere la continuità, la testardaggine, la cocciutaggine di rimanere con lo stesso tipo di principi e poi alla fine qualcosa porti a casa. Sai, un po' in piccolo la storia di Dallas, eh? Eh sì, assolutamente, assolutamente. Grazie Flavio, un abbraccio a tutti voi, ciao, ciao Flavio, ciao. Alla prossima. Senti Danilo, siamo quasi in chiusura purtroppo, proviamo a soddisfare le curiosità di uno che abita dalle parti di casa tua, Francesco, da Sant'Angelo Lodigiano, che ti fa alcune domande. Il pubblico più caldo all'NBA? Oklahoma. Con Bryant parli italiano? È capitato di scambiare qualche battuta, ma non è uno che parla molto con gli avversari in campo. A parte le stelle, il giocatore NBA che ti ha più impressionato? È una stella, ma devo sempre dire Kevin Durant. Poi c'è un altro ascoltatore che invece chiede se Wade è meglio di Kobe. Penso che quest'anno abbia giocato a un livello altissimo, soprattutto nei playoff, e quindi è andato più avanti di Brian nei playoff, e quindi probabilmente tra i due quest'anno ha fatto meglio Dwayne. Tutto chiaro? Fantastico, chiaro, un libro stampato, come dice Flavio. Dunque, adesso noi usciamo di qui, mettiamo il casco e andiamo a fare surf. Meraviglioso, meraviglioso. Perché l'altra volta c'è onda, c'è onda tra l'altro. Allora, io prometto che salgo su un surf se viene anche Danilo. Sì, però Danilo ha le braccia per... Anch'io. Io ti voglio vedere dietro lo spot. Allora, a novembre ci sono i mondiali di surf. In un giorno imprecisato, io, Danilo Gallinari e una... Danilo compagnia, potrebbe esserci, nel caso si confermasse, potrebbe allenarsi lì. Vieni a fare surf con me. Tutta la vita. Andiamo, dai. Grazie io a tutti. Io faccio la tavola però. Grazie a Danilo Gallinari, grazie a Riccardo. Ciao, grazie Pelli. A tutti. Franco Piantanida in redazione, Mauro De Angeli in regia con A Tempo di Sport. Ci sentiamo lunedì alle 2.